24 mattino. E del Natale non me ne frega niente, perché io sono di Bergamo. Noi a Bergamo il Natale è un giorno lavorativo come un altro. Ma che... Non siamo mica come i terroni del sud. Solo perché è nato un palestinese 2000 anni fa. Ma perché io devo festeggiare la nascita di un profugo, figlio illegittimo? Non dica cose gravi. Che ha occupato abusivamente una capanna, togliendola ad un'altra famiglia legittima. Cosa sta dicendo? Il Natale riletto con gli occhi del Crozzafeltri, che ormai è un genere letterario, un modo di vedere le cose, il profugo che occupa abusivamente una capanna, meraviglioso. Allora entriamo nella fase lente di ingrandimento, no, nella fase prime pagine. E raccontiamo oggi quello che succede con i titoli dei principali giornali, ma prima, come sempre, il... come dire, la copertina, ecco la copertina, sì. E mi ha colpito molto questo fondo di Gramellini, che ora non trovo, se qualcuno mi dà soccorso, eccolo qua, vai. Di bella presenza. Cercasi impiegata di bella presenza per tirocinio, durata 6 mesi più proroghe, part time, 20 ore settimanali, retribuzione, attenzione, 400 euro mensili. Scrive Gramellini, Corriere della Sera, prima pagina. Più che un annuncio, quello apparso sul portale istituzionale di Garanzia Giovani è un telegramma sulla condizione di degrado in cui versa il lavoro. Non è apparso su un'agenzia privata, ma all'interno di un progetto di governo e regioni finanziato dalla reverendissima Unione Europea. Non riguarda una zona disagiata, ma la provincia di Pavia. E a segnalarlo non è stato un Che Guevara di provincia, ma il mite giuslavorista Michele Tiraboschi, già assistente del professor Biagi ucciso dalle BR. Riepilogando, scrive Gramellini, per ottenere il posto devi accettare il solito impiego ballerino che ti impedisce di programmare, non dico una famiglia, ma un affitto. Il part-time significa che in un atto commovente di generosità ti lasciano mezza giornata libera per cercarne un altro di lavoro, magari in nero. E lo stipendio di 400 euro al mese certifica che il tuo lavoro viene valutato circa 5 euro l'ora. Quando quello degli schiavi era a queste quotazioni, bisognava notare che avevano vitto e alloggio pagati. E per accedere a tale delizia, che la mancanza di alternative rende persino appetibile, con un salto carpiato nel tempo, è richiesto come unico requisito la bella presenza. Ecco cosa scrive Gramellini. Da una giovane donna si pretende anche soltanto questo. Un aspetto gradevole, una pianta ornamentale fungerebbe altrettanto bene allo scopo, ma mantenerla costerebbe molto di più. Troppo per questa Europa che chiede bella presenza e continua a brillare però per la sua assenza. Questo è il fondo dei Gramellini di oggi, una delle tante offerte di lavoro, però ripeto, come dice Gramellini, avviene in uno spazio istituzionale. Allora, Corriere della Sera, scontro finale su Etruria, Ghizzoni, Boschi chiese di valutare l'acquisto, Carrai sollecitò opposizioni dure. E poi la foto centrale, Trump che indica una scritta Merry Christmas, il regalo di Trump alle imprese USA che preoccupa l'Unione Europea. La pesante lezione catalana, l'editoriale di Cazzullo sul voto, giustamente dice Giannino, molto sottostimato dai giornali dopo tanto eccesso. Libero, Palazzo Chigi, paghiamo 4.000 dipendenti inutili, il governo spreca 1 miliardo. La foto centrale di prima, si pesca fra i cadaveri. Vittorio Feltri, il corsivo, su Grasso. Grasso ha un conto in sospeso col PD, gli deve 80.000 euro. Il manifesto, Catalogna al voto, divisa in due. E poi la foto di prima con Renzi, il giglio infranto. Il fondo di Guido Moltedo, Tax Bill, la lotta di classe di Donald Trump. Il Messaggero, c'è ovviamente un'apertura su caso Etruria, scontro finale sulle richieste della Boschi, Ghizzoni, Unicredit, chiese se eravamo interessati all'acquisto, non fu pressione, ma cita una mail con l'intervento di Carraro, la sottosegretaria, così mi dà ragione. Poi la foto di due bandiere che si toccano, quella spagnola e quella catalana, indosso due belle ragazze. maggioranza difficile Podemos favorito sulle elezioni catalane. Quell'azzardo a Barcellona e le ricadute in casa nostra è il fondo di Viesti, e sulla pagina centrale c'è anche IVA, Altolà di Calenda, se vince il ricorso si chiude a gennaio. Leggeremo ovviamente questo ultimo scontro nella battaglia del ministro per portare a casa l'accordo. Boschi, intervista esclusiva alla Stampa sulle banche, errori di altri. Intervista alla sottosegretaria, io corretta, contro di me una caccia alla donna. Torna il tema della discriminazione di genere. Il Giglio perde la magia e il fondo di Mattia Feltri. La foto centrale, l'arte del selfie, i musei si scoprono social, ci sono dei bambini che si fotografano dietro lo scheletro, se non sbaglio, nel Minnesota, di un triceratopo. Sole 24 ore, manovra fondi a pioggia, questo darà dolore fra poco, Oscar Giannino, 18.000 assunti nella scuola, sfuma il piano di privatizzazione per Eni ed Enav, il testo scritto in commissione, e il Sole 24 ore, diciamo, fa un focus molto attento su che cosa cambia con le modifiche last minute, stop a stipendi in contanti. Ma ovviamente l'apertura è sull'Ilva, c'è la foto di una tuta arancione, tensione al tavolo Ilva, Calenda, l'impianto chiude se il TAR raccoglie la sospensiva. Il Tempo, adesso parlo io, chi è Mori, il generale che conoscete, l'uomo protagonista secondo i magistrati della trattativa, parla con la sua verità in un film, Generale Mori, che viene presentato oggi e che sicuramente farà discutere. Vedete che Il Tempo già parla in modo problematico del futuro del sottosegretario dopo l'audizione di Ghizzoni. Boschi deve dimettersi, 4 pareri diversi e una sorta di sondaggio del Tempo. Sono sentiti la Meloni, avrebbe già dovuto lasciare, Alessia Rotta, messa in croce per invenzione, la Lombardi non ha più scuse e molli per decenza, e la Puglisi del PD la attaccano perché donna. Torna questo tema dell'attacco di genere. Il Foglio, si sta come d'autunno sugli alberi le boschi, è il titolone centrale di prima, e il fondo di Cerasa. Una non storia diventata scandalo, spiega tutto sull'istinto autodistruttivo del renzismo. Quindi vedete, difensivo ma critico in qualche modo, il quotidiano più vicino a Renzi. Avvenire, obiezione a garantire. Avvenire sempre con le sue aperture diverse. La ministra Lorenzin si impegna a fissare le modalità. Bassetti, se obbligate le nostre strutture chiuderebbero. Ma qui si tratta del fine vita, l'obiezione di coscienza sugli eventuali interventi che riguardano il fine vita. E spunta la medica Rai, caso Etruria si complica, il titolo di Avvenire. E il Giornale, Boschi ora è in bilico, Renzi pronto a mollarla, ma non ci sono conferme, diciamo è un retroscena. Ghizzoni conferma pressioni per Etruria, spunta la bugia di Carrai. Carrai, consigliere della fondazione Big Bang, che si è difeso dicendo che non chiamava per conto di Renzi. La caduta del renzismo, il titolo con Renzi che applaude, diciamo è un gioco sulla fotografia. Governo, PD, Rai, freccia in basso, banche, profughi e alleati, è una sorta di sommario, un cahier de doléances della situazione del renzismo. Repubblica, dopo Boschi, Carrai, caos nel PD, Etruria, Ghizzoni conferma i colloqui e svela la mail dell'amico di Renzi, ma niente pressioni. L'editoriale di Calabresi è sorprendente, insomma molto forte, farsi da parte e salvare i Dem, toni molto forti. Calabresi consiglia alla Boschi di dimettersi. Gli ultimi due titoli, abbiamo una banda, Ghizzoni tumula Renzi, Boschi e Carrai, e la banda sarebbe questa con le 3 foto in prima, secondo il Giornale di Marco Travaglio. Corriere dello Sport, regalo di Natale, il regalo di Natale è quello da Roma al Torino. La Gazzetta dello Sport, Balotelli d'Italia, vorrei una big Milan, Inter e Napoli, e non ho capito il noi Ventura, Balotelli vuole tornare in Italia, intervista della Gazzetta dello Sport. Ci fermiamo e poi passiamo alla lente di ingrandimento fra poco. Curiamolo, leviamogli il metadone.

Allora andiamo sulla lente di ingrandimento per capire bene cosa sono i titoli che abbiamo letto, che cosa sta accadendo, davvero tante notizie, ovviamente importanti notizie economiche, quelle sull'Ilva per esempio, quelle su Uber per esempio, quelle su Etruria per esempio e tutti gli scandali e le polemiche, le risposte che ci sono dopo la testimonianza di Ghizzoni. Allora comincio dal fondo del direttore di Repubblica Mario Calabresi, che prende una posizione molto netta e chiede addirittura a Maria Elena Boschi di dimettersi. Ed eccolo qui, Repubblica, pagina 1. Un anno fa, era il 13 dicembre 2016, commentando la nascita del governo Gentiloni, criticammo le scelte di promuovere Maria Elena Boschi, la madre della riforma costituzionale bocciata al referendum, che avrebbe invece dovuto fare un doveroso passo indietro. Riconfermarla, scrivemmo allora, era una scelta evitabile che rafforza diffidenze, gonfia il qualunquismo e lascia un retrogusto di furbizia e immaturità. Una scelta che allora sarebbe stata dettata dalla sola opportunità politica, scrive Calabresi su Repubblica, pagina 1, e avrebbe evitato un finale come quello che è davanti ai nostri occhi. Un anno e 10 giorni dopo, infatti, la situazione è ben più complicata e grave, le ombre sul cosiddetto giglio magico si sono moltiplicate e l'affare Etruria è diventato la palla al piede di un partito che appare ostaggio del caso di una piccola banca meno rilevante di quelli avvenuti nel nord-est. L'uscita di scena di Boschi, non dal governo ma dal Partito Democratico e dalle sue candidature, è ora il passo necessario e indispensabile per provare a mostrare ai propri elettori di aver compreso la differenza fra interesse generale e interesse familiare. Vi ho letto subito questa presa di posizione molto netta e dura perché c'è una lettera di Orfini e Renzi al quotidiano di Largo Fochetti, ma il nostro non è un autogol, occupa tutta pagina 2 e 3 e sembra quindi che sia un botta e risposta, come dire, coordinato, molto forte. Scusate, occupa pagina 6, E certo i media, scrivono Orfini e Renzi, cioè il commissario del PD nella commissione delle banche e ovviamente il segretario del partito, hanno spesso dato più spazio alle vicende della Banca Etruria, le cui perdite rappresentano poco più dell'1,5% di quelle cumulate da tutte le banche italiane in crisi negli ultimi anni, che non a ciò che ha determinato il restante 98,5% di perdite, senza contare l'azzeramento delle azioni delle due popolari venete non quotate. E anche su Etruria, scrivono Orfini e Renzi su Repubblica pagina 6, l'attenzione morbosa è stata quella sulle agende, sugli incontri, sul gossip, senza toccare il vero punto, che non c'è stata alcuna pressione ma una doverosa attività di informazione e di attenzione. E questo è ciò quindi che scrivono per difendere la linea tenuta fino adesso l'ex premier dell'epoca e il commissario capogruppo in commissione del PD. E per sentire ancora un altro parere importantissimo, ovviamente c'è quello dell'interessata, perché come vi dicevo prima, se avete sentito, la Boschi parla sulla stampa, lei con un'intervista diretta, e ovviamente è importante, Francesco Bei. Quegli incontri erano doverosi, non farò il capro espiatorio. La sottosegretaria, nessun favore, sono pronta a ricandidarmi. E sentite allora tre lanci di quello che dice. Intanto spiega perché vuole querelare De Bortoli in ogni caso. De Bortoli sostiene che io vada da Ghizzoni per chiedere di comprare la banca e che la DIA a quel punto fece fare delle verifiche. A chiedere a Unicredit di valutare l'acquisizione era stata Mediobanca e le necessarie verifiche erano state fatte prima che io chiedessi informazioni a Ghizzoni. De Bortoli mi ha confuso con Mediobanca, ma non è la prima volta che prende di mira qualcuno di noi del cosiddetto giglio magico. Proprio non gli andiamo giù, peccato. L'azione civile va avanti e spero solo che non cada nel dimenticatoio. E quindi una risposta molto tosta oggi della Boschi. Ci sono stati scandali, perdite bancarie per 44 miliardi, dice la Boschi, La Stampa, pagina 3. E di che cosa parlano gli addetti ai lavori? Si occupano solo della mia agenda, dei miei appuntamenti, peraltro tutti legittimi. Non ricandidarmi? Se chiedono, io darò la disponibilità a correre in qualsiasi collegio senza avere nulla da temere. Infine, sul messaggio con cui Carrai, secondo Ghizzoni, lo sollecitava a dare una risposta all'interrogativo su che cosa fare, se acquisire o no Etruria: conosco Marco, se dice una cosa è quella, ma per chi non si fida basta rileggere le notizie locali dell'epoca per sapere che esisteva un interessamento per la Federico Del Vecchio. Sorprendente è che un deputato 5 Stelle chieda un appuntamento al governatore Visco su un fatto personale e nessuno dica una parola sul tema. E vi dicevo che c'è questo aspetto, Ghizzoni tira in ballo anche Carrai proprio sulla Stampa, e l'apertura di pagina 2, la difesa del amico fraterno ma anche collaboratore di Renzi, che all'epoca era segretario, era amministratore degli aeroporti di Firenze, era un interessamento per un cliente, non c'entra nulla. Allora, ancora prima di chiudere questa pagina su Etruria, c'è il retroscena di Ciriaco, su Repubblica, che parla di un faccia a faccia fra la Boschi e Renzi sull'opportunità delle dimissioni, per ora scartata. E poi il pezzo della Palmarini sul Sole, è un, anche qui è una nota di interpretazione che è importante per capire il quadro su quanto c'è nel partito di diciamo nel PD, quanto malumore c'è in questo momento e che cosa dice la corsivista e notista politica del Sole 24 Ore. Nessuno vede più le dimissioni della Boschi. Ormai, scrive, sarebbero una missione di colpevolezza e nemmeno si parla di una sostituzione di Matteo Renzi prima del voto. È vero, i sondaggi sono in calo, ma un'alternativa al segretario al momento non c'è. Non è stata costruita fin qui e non si riuscirà a farlo in pochi mesi. Tocca quindi restare nell'angolo in attesa che passi la nottata, se passerà. In una giornata come quella di ieri non sono tante le dichiarazioni ufficiali, scrive Lina Palmerini sul Sole, ma quello che si dice a bassa voce, fuori dai denti, fra i parlamentari amici, è questo che pesa. Nel PD, dopo l'ennesima puntata della vicenda Etruria che ha toccato l'apice con la deposizione di Ghizzoni e la mail di Carrai, la sensazione era quella di essere finiti in una strada chiusa. Quindi i mal di pancia nel partito, l'ipotesi di dimissioni, il rifiuto della candidatura, la richiesta di Repubblica, la difesa diciamo degli interessati, abbiamo letto praticamente tutto. E la Stampa e il Corriere della Sera, pagina 2-3, ovviamente ha una doppia pagina che è su questo, ma credo che è importante soprattutto leggere un altro retroscena, Maria Teresa Meli. Per Renzi, caso chiuso. La sottosegretaria, non mi farò massacrare. Fra soddisfazione per l'audizione e l'amarezza per gli attacchi. Allora leggo solo l'incipit di Maria Teresa Meli, il Corriere, pagina 3. A fine giornata Mariana Boschi non riesce a nascondere una punta di amarezza. La verità, confida agli amici, ormai non conta più. Ghizzoni dice una cosa, i siti di informazione ne raccontano un'altra. A questo punto chi può dire quando finirà questa storia? Io so solo che non voglio farmi più massacrare. Matteo Renzi è più ottimista, o almeno fa mostra di esserlo. Quello che doveva uscire è uscito. Ci sarà ancora qualche strascico per un po' di giorni, ma sostanzialmente questa vicenda è chiusa, è finita. E infine una cosa, no? Un'altra notazione nel pezzo della Meli, più o meno al centro dell'articolo. Nelle aree del partito c'è chi sottolinea che questa storia di Etruria sta facendo perdere al partito un punto al mese nei sondaggi. C'è chi ricorda che il ministro dello sport Luca Lotti era contrario a istituire la commissione inchiesta sulle banche e chi giura che il segretario non sapesse di tutti gli incontri che la Boschi ha avuto con i vertici degli istituti di credito e con quelli di Banca Italia. La ricandidatura della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, stando al tantan di Montecitorio, in questo momento appare in bilico. Questa è la fotografia e mi pare che abbiamo detto abbastanza. Ci sono cose molto importanti sul terreno dell'economia, ma le leggiamo subito dopo questa breve interruzione per le strade. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mattino. Io non creo niente, io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. E allora cominciamo dall'America, Gordon, cominciamo dal tuo paese. Massimo Gaggi, Corriere, pagina 17, il regalo di Natale di Trump, meno tasse a chi lavora per sé, l'ideologia di fondo, premiare i redditi da capitale agli stipendiati, pochi vantaggi, ma ovviamente questa mossa, questo tax cut, il taglio delle tasse, cuore della riforma che arriva adesso negli Stati Uniti, e preoccupa l'Unione Europea, perché la preoccupa tagliassero anche quelle che qui sono difficilmente sostenibili. Dicevamo, quante cose stanno accadendo su questo fronte? Ebbene, tante. Io comincerei con Uber. Il Sole, pagina 24, ci spiega che cosa è accaduto con la sentenza europea. Cioè, sostanzialmente c'è stato un altro passo che è interlocutorio di questa battaglia fra i tassisti e i concessionari della nota applicazione, ed è una sentenza che dice che valgono le norme nazionali. Questa è la sentenza dell'Unione Europea, la Corte si è pronunciata e ce lo spiega Maurizio Caprino sul Sole a pagina 24, però il problema, il titolo è anche una sobria ironia, le norme nazionali ma l'Italia non le ha. I giudici europei confermano che l'app è soggetta alla disciplina del settore che per oggi riguarda solo taxi e noleggio con conducente. La riforma che doveva esserci langue. Primo problema, Uber e... abbiamo visto che cosa succede. Amazon, sempre dal Sole, Andrea Biondi, sciopero nel sito di Piacenza e c'è il rischio che non siano consegnati i regali di Natale. Andrea Biondi ci spiega che cosa è successo, una giornata di altissima tensione, i sindacati hanno deciso di rompere le trattative perché l'azienda non si era presentata a un incontro concordato. Quindi il Sole, pagina 24, anche per questo. Bolkestein è l'altra vicenda calda e soprattutto ne abbiamo parlato ieri con Giannino, vicenda controversa. Ambulanti, vince la lobby, e la lettura, l'interpretazione del Messaggero, concessioni prorogate fino al 2020. Un emendamento in commissione slitta la direttiva europea che imponeva immediatamente le gare. Nuovo concorso per le agenzie fiscali, stipendi solo tracciabili, contanti vietati. Pagina 5, il Messaggero, l'interpretazione, i Dem, cioè i democratici, scippano le bancarelle ai 5 Stelle, diciamo così, nel derby del consenso, è un serbatoio di circa 500.000 lavoratori, il riferimento è al fatto che è stato votato quasi all'unanimità questo provvedimento di proroga. E infine, le multe dell'Agicom, questo è molto interessante perché sapete che è una vicenda che mi ha appassionato. Pagina 26, il Sole, mi sembra l'unico che racconta questa cosa incredibile, che malgrado l'ingiunzione dell'Agicom sulle bollette, ricordate il mese di 28 giorni, vi dovete allineare a tutte le compagnie, la diffida con cui Agicom sanzionava TIM, Vodafone, Wind 3, Fastweb per continuare a far pagare le multe in 28 giorni, e queste compagnie non si sono adeguate, continuano ad avere il mese di 28 giorni che quindi produce una mensilità in più, e adesso Agcom interviene di nuovo con delle sanzioni. Che cosa accadrà? Non sono in grado di dirvelo, per ora siamo sempre così in mezzo al guado. Allora, l'ultima cosa che volevo segnalare, ovviamente, è l'Ilva. L'Ilva è su tutti i giornali, Il Sole e Il Corriere gli danno uno spazio importante. Tensione al tavolo per l'Ilva, Calenda, l'impianto chiude, se il TAR accoglie la sospensiva. Questa è la vera notizia. Sul Sole, a pagina 19, firmano Meneghello e Picchio, e quello che stiamo assistendo è un braccio di ferro, un tira e molla. Ci sarà questo ricorso alla fine? Governo pronto a spegnere Ilva, addirittura se resta il ricorso. La replica di Emiliano, cose senza senso. Renzi media, salviamo insieme Taranto. Il pezzo di Matteo Meneghello è l'apertura di pagina 25 del Sole, e questo è il senso. Ricordate che si tratta di 20.000 lavoratori, per non parlare dell'indotto. Allora, cambio passo e andiamo alla mitragliata. Una notizia particolarmente attuale. Lo sapete che ci sono degli studi su come è cambiata la percezione del freddo? Elvira Serra ci racconta sul Corriere della Sera, pagina 31, che abituati a inverni miti e più comodità, ora avvertiamo come bassissime temperature e dei livelli di freddo che sono storicamente normali. Siamo meno coperti, dicono le ricerche, e di memoria corta. E c'è un esempio: il meteorologo Massimiliano Pasqui, per nulla colpito dalle temperature medie di 2 gradi a Milano e di 8 a Roma e di 6 a Napoli, spiega che l'anomalia erano i 4 gradi in più registrati lo stesso giorno di un anno fa. La tendenza è questa. Il CNR ha appena presentato la relazione termometrica del 2017 con 1.3 gradi in più rispetto alla media di riferimento. Quindi sale la temperatura, ma diminuisce la nostra soglia di percezione. Quindi spiega questa ricerca, è una pagina interessante da leggersi. Noi abbiamo una percezione di freddo molto più alta, per esempio, se c'è vento. Il borsino delle quotazioni. Olio, quello italiano 4,35 euro, quello spagnolo 3,59, in calo quello spagnolo, quello italiano in questo momento vale di più. La vicenda delle molestie, La Verità gioisce e mette in prima pagina come un fatto epocale, in parte lo è, la condanna di un Weinstein donna, una donna molestatrice. Pensate, Andrew Ramsey viene condannata per essere una donna che ha molestato degli uomini. Il caso Placido, l'avevamo raccontato ieri come clamoroso, forse avevo ragione. La vicenda di Federica Vincenti, giovane compagna che rottamava il suo uomo dicendo che fisicamente era, come dire, decaduto, e questo ha prodotto una separazione consensuale. E adesso dice: ho vissuto l'inferno, non ho mai detto di aver lasciato mio marito. Secondo la musicista, si è voluto prendere solo la parte più cattiva, becera, delle parole con cui ho raccontato la trasformazione di un rapporto. Cosa significa stare in un amore che subisce cambiamenti, momenti difficili? Si è voluto scrivere che ho mancato di rispetto a mio marito, umiliato a 71 anni dalla moglie giovanissima. Non è così. È, insomma, una specie di telenovela. E ultima cosa, pensate, ci sono 110 razze animali a rischio in Italia, sono razze che potrebbero estinguersi da un momento all'altro. Ce lo racconta La Verità con un focus e dice anche quali sono, pagina 23. No, mi colpisce perché, no, c'è una sorta di nemesi. Erano 33.000 nel 49, oggi sono ridotte a 15.000, nonostante la carne pregiata, gli allevamenti sono in declino: l'asino albino dell'Asinara, il leprino di Viterbo, la capretta del Gargano, la pecora alpina della Brianza, la vacca pontremolese. Pensate, sono rischi anche questi, l'estinzione di alcune razze italiane. Ci fermiamo per il giornale radio, torniamo con i cani e i gatti, preparatevi a far squillare i telefoni 800 24 0024.